paese come Lonate è un paese che è basato un po' sulla meccanica, sul tessile, sulla gente che lavora. Sì. E il fatto che si scoprono determinate cose dopo 3 morti ammazzati a Lonate e il paese vicino che è Ferno, piuttosto una 20 di arresti dell'anno scorso, sequestri di beni immobili e immobili, qui la gente sapeva di queste cose, non è che non sapeva, solamente che c'è l'omertà, come sentivo dire prima. No, ma scusi, io voglio capire una cosa. La gente non sapeva e lo scopre con gli arresti e dopo dice oibò e tenta di capire, oppure lo sapeva, tace sapeva. Prima, tace dopo tace durante, no. Come in Calabria e come in Sicilia, quindi piantiamola lì poi di dire che sono sempre meridionali. La gente sapeva prima degli arresti, ma non osava andare a denunciare. E dopo? Qui ci sono 50 famiglie. E dopo, quando vedono che lo Stato interviene, rimangono zitti comunque? Oh, peggio ancora, ancora peggio di prima, perché hanno paura che magari alla famiglia succede qualcosa, gli incendiano la macchina come hanno fatto prima, piuttosto che l'attività. Per cui c'è un silenzio assoluto, anzi è meglio evitare di parlarne. E nella sua esperienza, Lonate, dopo gli interventi della magistratura, nessuno si è mosso per dire cari ragazzi della cittadinanza, ci dobbiamo da fare di più? Assolutamente no. No, assolutamente no. Di più, su 50 persone intercettate, sottoposto a racket e a pizzo, solo 5 si sono costituiti parte civile. Questa la dice lunga.